L'avvocatura. Ogni avvocato vive nel suo patrocinio certi momenti in cui, dimenticando le sottigliezze dei codici, gli artifici della eloquenza, le accortezze del dibattimento, non sente più la toga che ha indosso, non vede più le toghe di cui sono ammantati i giudici, e si rivolge a loro, guardandogli negli occhi da pari a pari, con quelle parole semplici con cui la coscienza dell'uomo si rivolge fraternamente alla coscienza del suo simile per convincerlo della verità. In questi momenti la parola giustizia torna ad essere fresca e nuova, come se si dicesse allora per la prima volta. E chi la pronuncia si sente passare nella voce un tremito discreto e supplichevole, come quello che passa nelle parole del credente che prega. Piero Calamandrei.